faremo mai. Ma dillo a tutti che tu sei povero e infame, che per destri ci vendere sta anche tuo padre. Caro amico, ora è scontro frontale, questo scudo mi protegge da difensori del male. Non siamo amici, no, no. Non siamo amici, anche se ti eri illuso. Ma noi non siamo amici, no, no. Esci dalla mia vita, ora falla finita. Ma noi non siamo amici, no, no. You made a mistake, and now you pay. Ma noi non siamo amici, no. O chi sparavi, amici qua l'amici non lo siamo mai stati. Ok, stai raccontando in giro i cazzi miei e crei finte storie mentre sto con lei. Sbirci tra le mail, entri nei locali non dicendo mai chi sei. Ti presenti al bar come mio nuovo DJ. Hey, e quante volte ero disposta ad aiutarti? Io ti credevo, non credevo solo agli altri. Sono un uomo e di perdono è per i santi. Non che non mi sporco neanche un dito per picchiarti. Non siamo amici, no, no. Non siamo amici, anche se ti eri illuso. Ma noi non siamo amici, no, no. Esci dalla mia vita, ora falla finita. Ma noi non siamo amici, no, no. You made a mistake, and now you pay. Ma noi non siamo amici, no. O chi sparavi, amici qua l'amici non lo siamo mai stati. Con sta faccia da iena, non ne vale la pena. La stima non è il conto che presente a fine cena. Cambio sta cantilena, ora conosci il tema. Mi chiami fratello e sa il mio nome a malapena. È uno fatto scena, per me amicizia vera. Se sfidi la vita ancora con un ago in vena. Tu che mi dicevi insieme contro il sistema. Ma ogni tua parola ora sembra solo un colpo sulla schiena. Ma dillo a tutti che tu sei un povero infame, che per due spicci venderesti anche tuo padre. Caro amico, ora è scontro frontale. Questo scudo mi protegge tardi per farmi del male. Non siamo amici, no, no. Non siamo amici, anche se ti eri illuso. Ma noi non siamo amici, no, no. Esci dalla mia vita, ora falla finita. Ma noi non siamo amici, no, no. You made a mistake, and now you pay. Ma noi non siamo amici, no. O chi sparavi, amici qua l'amici non lo siamo mai stati. Non sai niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte dance. Tu davvero non sai niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte dance. Oggi Bruno è forte, ma ne ha passate troppe. Ma sono le vostre bocche che stanotte fanno Io che volevo fare a pugni con le mie ambizioni, che ho giocato con i miei sogni e con le mie passioni, che pensavo solo al bene dei miei genitori. A 18 anni giù del flash delle suggestioni. Troppi sì, ce la farò, tra due anni ne uscirò fuori. Sì che resto fuori dalle mie contraddizioni, congratulazioni. Lei è stato il primo studente che ha bocciato la Bocconi. Sì che resto fuori, ora scrivo le canzoni al di là delle nuvole, come Antonioni, Pablito. Non sono io che parlo, vuoi sapere come vivo? Affitta camere a Milano. Ti sembra strano? Attento che ti scamo, perché mio padre mette mano dove tu cerchi in vano. E non mi importa cosa penserai davvero, perché Easy resta Easy sempre il solito guerriero. E t'hanno detto che ero impazzito, che sono rimasto solo senza neanche un amico, che ci ho provato ma che poi ho fallito. Ed ho bruciato i soldi di papà in Campari e Mojito. Che a Milano sono un mezzo mito, che ho timbrato decine di gruppi, strazza un sito. La maggior parte di loro non m'ha mai sentito, ma tu sei tutto di me da quando sono partito. Tu davvero non sai niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte dance. Tu davvero non sai niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte dance. A te che parli tanto, vabbè non sarò un santo, qualche volta pianto. È vera, è stata lei a lasciarmi per prima, perché ha smarrito la strada. passata. Non gli è bastata una cartina, sì. Ma certa gente si ostina a parlare, ma con ogni sua innocente fuga io ho risposto con un'area. Era troppo borghese, non era lei ingiusta. Ora che cerca le risposte nel filo dentro la busta. Io lo so cosa pensava quando se ne andò. L'adolescenza suona in cuffia con il panda a Bardò. Io in testa ho solo fotogrammi mossi. Io più massiccio di prima, ecco di corso. Te l'hanno detto che a letto tenevo il libro di Kant. Era un appoggio perfetto per spicciolare la scala. Ero noioso, le parlavo tutto il tempo di funk, mentre girava i mercatini per comprare i collant. Te l'hanno detto che l'essere lei si illumina d'incenso. Ha rinunciato le stelle, ora le cerca in piazza San Lorenzo. Foglia di ganja, giallo, rossa e verde. Lei voleva solo il red, io potevo darle il reggae. Cercava scuse su quel treno di un fiume che scorreva tra le pagine dei libri di Coelho. Da quella notte lei si dichiarava salva. Ora che dichiara è rimasta soltanto l'alba. Però non sa niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte than se. Davvero non sa niente di me, ma ti piace parlare sempre di me. Oggi resti a digiuno, ne sono sicuro, e canto più forte than se. Voci di corridoio colpiscono nell'orgoglio, taglienti come un rasoio, cazzate che non ingoio, le scriverò sopra il foglio. No, che non m'annoio se stira per fanno i dischi senza il loro portafoglio. Parecchi rapper hanno da ridire se metti i ritornelli tra le rime, e concludo le quartine a due alla volta come le velline. Ma non segui nei numeri se non sanno neppure le tabelline. Tu parli ma non c'hai stile, la maggior parte di loro da tempo mi ostile, perché scrivevo sui ritmi incontro un casile. E non è un caso se Wallow non mi stampa il vinile. Ho fatto rap sulle basi giamaicane, e tu fai no con la testa ma il mio disco originale ideale. E se non spacco le chitarre perché stringo tra le corde i concetti in 16. Te l'hanno detto che ad Alice ho girato uno spot, e che leggevo le notizie in un TG hip hop. E se a Rototom ho spinto il boom up con un gruppo rock, non mi hai sentito fare il rap col batterista in one drop. Te l'hanno detto che a Milano ora suono da solo, e che se mi butto cado verso l'alto come Fabio Volo. Ehi uomo, te l'hanno detto chi sono, e che faccio rap per uomini e donne ma senza un trono. Oggi Bruno è forte, ma ne ha passate troppe. Ma sono le vostre bocche che stanotte fanno shh. A tavola! Aspetta amore. Sorori da fronti, luci capunti, in giasta terra i briganti. Menti stromonti, come una parola confondi, tutti sti genti che arrivano chi mani giunti. Canto vuoti di cercai con gli occhi per fuori la città che mi stringi. Tanto modi di guardai con soli, con 2000 sfumature che dipingi. Acqua da sorgenti pa' me siti, pioggia fritta bagni me vestiti. Virdi come foglie candestati, grido come nevi secchianati. Porti come mani ripasturi, vitti sui pagioni la montagna chi pasturi. Ma chi tu che comandanti senteri non si viri, non si viri. Menti stromonti, sciogamo sorori da fronti, luci che canti, in cesta terri briganti. Menti stromonti, come una parola confondi, tutti sti genti che arrivano chi mani giunti. Canto vuoti camminare in canotti, con un zaino e una speranza che riscalda. Tanto cuore duro come ghiaccio, e non c'è nulla chi ti sente e chi ti guarda. Frutta la stagione, fame e fami, ligno che cresci, chi son rami. Terra russa resta in sti mani, e ti segna pure se ti lavi. Scindi come pesci in ciumari, fumo un chiana come i carbonari. Per favore non mi rassare mai, mai. Menti stromonti, sciogamo sorori da fronti, confronti, voci che canti in gesta terribili canti, venti strumenti come una parola confondi, tutti sti genti che arrivano chi mani giunti. Tanto voti di cercai con l'occhi di fuori la città che mi stringi, tanto voti di guardai con soli con tutti sfumature che dipingi, acqua la sorgenti, pioggia fritta, virgi come foglie calde stati a spumonti. Quindi dovete stare in silenzio se volete ascoltare quello che dice. Io muovo con una poesia, quasi l'ultima, sempre in dialetto paesano, che io sa che parlo in italiano. Allora, chi lo sa? Se ognuno avesse un'escia un'altra volta, e dopo passato si ricorderia con tutta l'esperienza accumulata usata. Dopo che combinaria. Usata se ci venire in ambienti scili, non si potta mai cacciare, i cose che pensavo e non si può dire o quello che non dice, e potia fare. Usata, o mondo si sarebbe comune. Se è vero amore e pace regnaria, se fosse storti, fosse racchianati all'egoismo, è vero sbagliaria, usata. E l'uomo, quanto vuoti, si proventivo cangia e non cangiavo, e fu costretto a cacciare marionetta in una commedia che non recitavo. O mondo gira e vota e sempre stesso una trama che si tessa e che si scila, una tavolozza piena di colori, ad ognuno un bratta a propria vita. O resta è fantasia, che si rimiglia quando la vita rahando si strascina e tutto pisa, tutto per amico e per ragione sombra. E un giorno fino, come un lumericcio che si astuta, morano i suoni ad ispiranze puro, la notte scinda queta e ingiutta tutto, eppure lo parvisce, è sempre scuro. Sulla nostra realtà, storie d'ordinaria negatività. Tieni a mente il tetto di un'enzi calabrese, ricorda che la mafia è anche nel mio paese. Ritieniti abbastanza fortunato di non essere cresciuto in un luogo in cui la vita è dura più di quello che tu pensi. Qui se fai del bene al mondo lui ti prende a calci. Odio le abitudini dei figli di papà, a loro solo cose buone. Io ricevo solo sfighe e c'ho le palle piene di tutte le persone che sono nate al sud solo quando gli conviene. Al di là di una degradazione che giornalmente sale di livello, amo la mia terra immersa nei problemi fino al collo. Solamente adesso puoi capire il mio valore, puoi capire il nesso tra quello che io scrivo e quello che io vivo. Chi sbaglia prima o poi deve pagare, detto da un zitterrone a cui scorre sangue blu dentro le vene. Se solo avessi la fortuna che hai tu, se solo avessi la fortuna che hai tu, se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud, lavoro per il sud. Se solo avessi la fortuna che hai tu, se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud, lavoro per il sud. Prendere coscienza della realtà dei fatti, la mia intenzione è giudicare solo quegli atti. Parole pronunciate con disprezzo, scene che fanno solo non ridire e pensare qual è il prezzo di tutto ciò, di questa situazione negativa a tal punto, specie nel mio rione. Paura, ansia, qualsiasi terrore dobbiamo sopportare. C'è chi si crede superiore, che vuole ostacolare il tuo sogno, il tuo cammino. Mentalità retrograda, specie per quel bambino educato con quei precisi atteggiamenti, senza un futuro ben preciso, senza sentimenti. Volere il male di qualcuno solo per fare il male, con retorica ora l'unica cosa è cambiare. L'unica cosa è cambiare. Se solo avessi la fortuna che hai tu. Se solo avessi la fortuna che hai tu. Se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud. Lavoro per il sud. Se solo avessi la fortuna che tu. Se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud. Lavoro per il sud. Se tu c'hai amici o sono l'amico, non è più Dio ma sono io che benedico. Perché chi sente e dice c'ha solo nemici, chi non sente e tace possiede solo pace. Mentalità del cazzo alla quale sono avvezzo, svezzato in una zona in cui l'unico scopo è di coprirsi il mazzo. No, non ne voglio più, non ne posso più. Ma ugualmente nelle vene scorre la linfa del sud, dove un torto viene esasperato all'inverosimile. E tutto ciò che è incommestibile diventa digeribile per un palato troppo labile. Sin dalla fonte gente che alleva famiglie col sudore della fronte, gente che con la speranza ha superato tempi bui, gente ignobile che vive sulle spalle altrui. Tu non apprezzi il mare, l'erba, le brulle distese, etichettato con la mafia il territorio calabrese. E ne vai fiero, dalla Calabria ereditato solamente un lato, quello più oscuro. Non il calore che ci unisce come istinto primo, mentre tu non sai nemmeno il nome del vicino. Freddezza alla radice, il nulla ti si addice. Il tuo cuore ormai ridotto ad una macchina motrice. Fingiti mafioso finché vivi a Shangri-La. Questa è la differenza fra la mia e la tua realtà. Se solo avessi la fortuna che hai tu. Se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud. Lavoro per il sud. Se solo avessi la fortuna che hai tu. Se potessi dire almeno una parola in più, sarebbe dedicata al sud. La mia terra è il sud. Lavoro per il sud. Surprise! We'll be right back. beautiful face. Yeah. In the fresh snow and the waiting.